mancanza visiva, presenza che ravviva, impacco di sativa, distacco dalla riva, imbarcazione alla deriva, tra le persone quella che riattiva, dalla buligio di chi non capiva, cielo grigio nella mia saliva, poi febbre gialla tipo jungle viva, restavi a galla mentre il tempo ti rapiva, la testa fuori, il corpo immerso in cera viva, la birra mi inghiottiva, come vendicarsi lambiva, le mie sponde, mi fastidiva, una delle creature immonde che seguiva, la mia persona schiva, stop, pausa ricreativa, siamo rimasti in tre, io Mefisto e Shiva, seduti in una stanza e si cremava, la luce lunare illuminava, coadiuvata da una candela consumata, avanti così tutta la nottata, la vela spiegata, la mela traforata, mi ha dato una bordata, la capa frantumata, del suo contenuto saccheggiata, su un prato di erba rada, una aiuola in mezzo alla strada, il corpo decapitato a fianco la teneva bada, e quella scappava, come Lupin da Zenigata, rifugiata in una contrada, inesistente, ogni l'attimo fuggente, assillava certa gente, fetente, parlava per ore ma di niente, ovviamente, cercava di cambiare la sua mente, psicante ed insistente, loquace ed eloquente, uno due, la mia testa improvvisamente, infastidita oltremodo esageratamente, ritorna sul collo ed annienta, onnipotente, sgorgando rime a mille, dalla sua sorgente, eliminando chiunque fosse lì presente, immantinente, il mio colpo di tosse sei sparito per sempre, mentre la mia maledizione ti colpisce al ventre, lo smog di Van Gogh trova nella sua coltre. Hip hop schizofrenico, sotto a chi tocca che io vi sradico, se vi prendo sto impazzendo, chiamate un medico. 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico, 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico, sotto a chi tocca che io vi sradico, se vi prendo sto impazzendo, chiamate un medico. 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico. Riprendi coscienza annusando i sali, ritrovati in un mondo di presenze verticali, pensando a ciò che è mondo come al mondo che quotidianamente sondo, psichicamente resto su e non tocco il fondo, anche se fisicamente moribondo, vedo ogni tua mossa dall'alto come un condor, appoggiato sull'appalto per quel dato il nulla osta, la tua testa è in divieto di sosta, su nuove volte ti porto la posta e con quel che costa, mi prendo qualche busta in quanto questo meriti, aprendo un rubinetto erediti, a me tocca di produrre pezzi inediti, perciò adesso ascolto e siediti, immagina te dentro una stanza mentre mediti, perditi, nei meandri vedrai il mio volto al museo nei quadri grandi, territorialmente ti espandi, mandi voci fino a quando sbandi, e stando a quanto tu mi dici, la mia metrica punge come ricci, veni, vidi, vici, perderai la borghesia che traspare nel programma amici, il buon senso di chi ha spento le luci, e tu con lo stegno dentro un albero che bruci, piangente come un salice, marcio dalla radice, ora capisci ciò che dice pure dice, dice accese con l'estremità dentro il ventre di una madre procreatrice, nutrice, della maledizione del tu portatrice, viaggio nel paese delle meraviglie come Alice. Per gioca, hip hop schizofrenico, sotto a chi tocca che io vi sradico, se vi prendo sto impazzendo, chiamate un medico. 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico, 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico, sotto a chi tocca che io vi sradico, se vi prendo sto impazzendo, chiamate un medico. 1-2 per gioca, hip hop schizofrenico. I'm Dutch. Perciò non si fermò alla fattoria a chiedere la paglia, né dal taglialegna a chiedere i bastoni, ma soltanto ad una fornace per chiedere qualche mattone. Volentieri. Eccoti un poco di paglia delle mie mucche. Speriamo che basti. Grazie mille. Siete molto generoso. Io mi farò una bella casa.